Riprendiamo la diretta dedicata al teatro come ogni venerdì al Breakfast Club. In questo caso avrete sentito anche già in altri format, ma il Breakfast Club ulteriormente per portare approfondimento a un festival da sempre seguito nelle nostre prime colazioni in diretta. Quindi la parte mattutina del format dedica questo spazio a Peraspera Festival, la 16ª edizione. Peraspera Festival, esperienza, arti performativa, danza, musica, arte digitale, fotografia e anche radio. Ne parleremo con Maria Donnoli a breve. Gli incontri saranno dal 18 al 24 settembre, la nuova edizione di un festival che immerge il pubblico. Esatto, esperienze immersive, direi che è la parte che contraddistingue in maniera partecipativa il pubblico in queste esperienze uniche. A Bologna e anche nelle adiacenze della nostra città. E dal 18 al 24 settembre la particolarità di Peraspera, oltre che l'aspetto immersivo, è il dialogo costante che c'è per alzare un'asticella di incontro tra diverse espressioni artistiche. Ne abbiamo parlato con Maria Donnoli, come ho già detto, e quindi iniziamo ad ascoltare questa conversazione. 16ª edizione di Peraspera Festival 2021 e siamo con Maria Donnoli. Allora, finalmente ci conosciamo di persona, tra l'altro ne approfitto per chiederti novità e linee, fili rossi che uniranno questo festival che seguiamo da tempo. Il tema di questa 16ª edizione è Gradiente, è un festival pieno di sfumature. Vogliamo partire dalla complessità, mettendola a valore, la complessità che è data dall'intrecciarsi di questi vari linguaggi che creano sempre linguaggi e opere e operazioni nuove che sconfinano, e sconfinano sia i confini delle discipline che i luoghi, perché i progetti che presentiamo sono sempre pensati per luoghi specifici, spesso non convenzionali. In particolare quest'anno andiamo negli spazi espositivi di diversa natura, dai musei cittadini agli spazi indipendenti, ai musei privati, e li rivitalizziamo attraverso l'apporto delle arti performative. Ma non ci sono solo arti performative, c'è una bellissima mostra fotografica di Enrico Fedrigoli che dialoga con l'arte digitale e con la danza, ci sono presentazioni di libri, c'è l'attraversamento del patrimonio museale del Museo della Musica indossando delle lenti queer, in ottica queer, quindi una visita guidata molto particolare che affidiamo a un filosofo politico esperto di intersezionalità. Quindi insomma le proposte di questo festival sono veramente tante e sfumate, tanto da portarci a dire che il gradiente è il tema conduttore di questa edizione. Quindi molto esteso, si inizia e come si inizia? Si inizia lunedì 18, si inizia con il vernissage della mostra di cui vi parlavo, di questo progetto fotografico che si chiama Tears from the Void, cui Enrico Fedrigoli, fotografo che lavora col Banco Ottico, intreccia l'arte digitale di Black Seven e il corpo in danza di Eleonora Fabrizi. Questo progetto genera una mostra fotografica che viene installata in questo nuovo spazio che si chiama Pietro, in via Galliera, nel seicentesco Palazzo Tanari. Sì. E poi si sposta alla Casa della Cultura di Calderara, dove viene riportato in forma performativa. Quindi Eleonora Fabrizi mette in danza questo progetto, immersa nei suoni elettronici di Vincenzo Scorza e nelle immagini di Black Seven. About. My life is different now. I'm not the same without you. I'm evolving at a really astounding rate of speed into something way cooler than what I was before. I feel much stronger. My mind is sharp and my spirit's sound. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. in the world is going on? Please tell me. Without you, I now have eyes to see some other destiny. A future scape of brighter days in which I bring off heroic escapades. I can hold my breath for a really long time. I can hold my own. Io che adoro il latino non ho avuto la possibilità, però ovviamente quando c'è la passione, anche se non in maniera precisa, alcune cose, alcuni aspetti vanno a colpire. Per aspera, attraverso le asperità si raggiunge la virtù, è una locuzione latina. Vi ho parlato di alzare l'asticella, di mettersi in gioco, di comunicare in maniera particolare, alquanto estesa, leggibile anche, ma allo stesso modo portando un aspetto che accresce per un'estensione artistica che comprende non solo la diffusione ma anche la commistione con sedi museali, sedi che diventano palcoscenici, che con musica, video, fotografia, presentazioni letterarie danno all'edizione sedicesima di Per Aspera Festival la parola d'ordine, il filo conduttore gradiente, appunto da uno spazio veramente illimitato, oltre che gli spazi museali di cui ha dato un accenno perché sono veramente tanti. Aggiungo una parte dedicata alla musica, dove il batterista, amico di Radio Città Fujiko, del Jazz Live che a breve sarà presente in frequenza, Andrea Grillini, con un progetto che sarà un'esplorazione sonora alla base anche della live performance La Testa No, eclettico duo di batteria e violoncello composto da Francesco Guerri e Andrea Grillini. Debutto con il progetto Mailbolgi il 19 settembre alle ore 20 nella settecentesca Villa Aldini, che appunto diventa un palcoscenico ulteriormente spettacolare. Tante le collaborazioni anche con il Mambo, insomma il Museo Internazionale Biblioteca della Musica, e quello che è un'estensione alla Casa delle Culture Italo Calvino a Calderara di Reno per la 16ª edizione di Peraspera Festival. Ringrazio Maria Donnoli che ho intervistato telefonicamente più volte. Molte volte capita, no, di avere un dialogo telefonico ripetuto, e poi è un po' quando a volte capita: ah, ma sei tu la voce della mattina su Radio Città Fujiko? Puoi improvvisamente dare anche un volto, una fisionomia? Beh, chiaramente io deludo molte volte in questo caso, però allo stesso modo quando poi ho dialoghi e colloqui telefonici, poi vado agli spettacoli, non sempre mi capita di incontrare alla direzione artistica, organizzatrice e organizzatori. Questa volta c'è stato l'incontro con Maria, che ringrazio. Nella seconda parte di conversazione che andremo ad ascoltare, procediamo appunto anche in una particolarità così metafisica. Beh, metafisica, a un certo punto rintocco di campana che ha dato un aspetto esoterico ulteriore per il nostro dialogo. Rintocco di campana e è una magia, ti dà una bacchetta magica. Cosa vorresti? Qual è il tuo desiderio in relazione anche ai progetti futuri o al festival che stiamo presentando? Allora, il mio desiderio è quello di incontrare il maggior numero possibile di persone, perché tutti i nostri eventi artistici sono gratuiti, e questo perché l'idea del festival è quella della massima possibile apertura, sempre apertura verso i linguaggi, ma apertura anche verso le persone che sempre nuove si affacciano a incontrare i lavori che proponiamo. Sedi del festival, siccome le vogliamo incontrare, diciamo un po' di aspetti logistici. Allora, sedi del festival: Mambo, Museo della Musica, Galleria Pietro, questo spazio di cui vi parlavo prima, questo spazio indipendente in via Tanari, Villa Aldini, in una duplice veste, sia nel parco che nella rotonda della Madonna del Monte, che è questa chiesa medievale bellissima, rotonda appunto, inglobata in Villa Aldini, la Casa della Cultura Italo Calvino, che è un nostro storico partner dove portiamo progetti di danza, il Laboratorio San Filippo Neri, dove il festival chiude con Claudia Catarzi, con un progetto anche questo di danza in prima regionale. Beh, tanti, uno l'hai già citato, che è il portico in Tanari, che è veramente molto bello, in Galliera. Esatto, no, questo spazio che si chiama Pietro. E poi siamo in uno spazio nuovo a Casalecchio, una nuova casa museo, si chiama Casa Museo Nena, e anche qui la esploriamo sia nel suo giardino esterno, questa tenuta settecentesca che recentemente è stata trasformata in museo, che nei suoi sotterranei. Ah. E lo esploriamo con il linguaggio della radio, perché nel giardino c'è l'ascolto di un radiodramma di Fanny Alexander, mentre nei sotterranei c'è questa esperienza di ascolto, un percorso attraverso i radiodrammi e la storia del radiodramma, creato appositamente per l'occasione da Rodolfo Sacchettini. E a noi fa tanto piacere che ci sia anche la radio, ovviamente. La radio noi l'amiamo sempre tanto, quindi l'abbiamo voluta rendere protagonista tra i linguaggi di questa 16ª edizione. E con tanta passione ricambiamo questa dichiarazione per il festival. Piattaforme e informazioni anche online, perché il programma è importante? Sì, il sito perasperafestival.org principalmente, poi vari social, ma diciamo la piattaforma principale è quella. Grazie, buon festival! Thank you. Festival, Bologna è città metropolitana, mettiamoci in gioco per un gradiente programma dal 18 al 24 settembre 2023. Grazie a Maria Donnoli di Per Aspera. Il nostro format Breakfast Club al venerdì vi porta in scena. A breve, dopo la pubblicità, rientriamo e si continuerà a parlare non solo di teatro, in questo caso anche di una relazione importante con la natura. Ci sentiamo tra poco. Buon ascolto, buona colazione. I am the new, for reasons I can never explain. I speak the truth, I put